Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È un maglione a maniche corte, giallo, con delle piccole fragole rosa stampate sopra. Era uno di quelli comodi che lei metteva per stare in casa, per pulire e cucinare. Potevo vederla davanti a me, come se fosse proprio lì, con indosso quel maglione. Ciao, sono Chiara, ho 22 anni, abito a Pioltello in provincia di Milano, sto per laurearmi in filosofia e suono la batteria. È molto complicato liberarsi delle cose, liberarsi degli oggetti che possediamo o che addirittura sono appartenuti a qualcun altro e ce li siamo ritrovati nei cassetti o tra le mani, soprattutto se sono stati parte della vita di qualcun altro a cui tenevamo. Questo è il caso di Chiara e questa è la puntata di oggi. Buongiorno a tutti, è martedì 27 novembre 2012, sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma si chiama Voi siete qui, sono le vostre storie, la storia di oggi appunto è quella di Chiara, che parla di quanto è stato difficile liberarsi di un maglione di cui infatti poi non si è liberata. L'argomento però è che a un certo punto voi l'avete fatto, vi siete liberati di qualcosa, un oggetto, un capo d'abbigliamento, un piccolo souvenir o un oggetto d'arredo di casa vostra e poi te ne siete pentiti fortemente. 349-238-6666 o il profilo Facebook se ce l'avete aperto in un martedì qualunque di fine novembre. Voi siete qui, Radio 24. Susanna ce l'aveva aperto e mi ha scritto la mia radio Brion Vega Cubo. Cavolo che rabbia, la cubo è quella che si apre a metà, no? come la tua, Tiziano. L'ho data via, me ne sono pentita. 349-238-6666. Raffaella, butto via troppo poco e mi pento quasi sempre. È chiaro dai messaggi che sono arrivati che il problema non è pentirsi di quello di cui ci si è liberati, ma è non liberarsene affatto e poi pentirsi per quello. Roberta invece non se ne pente e mi fa scoprire tra l'altro una cosa nuova, perché dice: io ho appena finito un traumatico trasloco da Milano al nord-est, volutamente indefinito, ovvero con scatoloni e altri pezzi rimasti temporaneamente a Milano. Che non capisco esattamente, volutamente indefinito. Ah, nel senso che non è che non l'hai fatto in tipo 2 giorni di fila. Vabbè. Non vi dico la fatica di scegliere cosa tenere e cosa buttare. Non ritengo di aver fatto scelte sbagliate perché il mio motto è: da 44 anni, nel dubbio, tienilo. Comunque, io e la mia famiglia siamo abbastanza malati su queste cose, potete definirci senza dubbio hoarder, scritto H-O-A-R-D-E-R, hoarder, con l'H davanti. Ho fatto una ricerca di 2 nanosecondi prima di andare in onda e ho scoperto che in italiano questo disordine si chiama disposofobia. Alcune malattie sono invisibili, altre invece a dir poco ingombranti. Quando possiede qualcosa non riesce a buttarla via. Anche se davanti agli occhi di tutti è difficile ammettere il problema. Io colleziono cose. E salvare il rapporto con le persone che più si amano. Le storie di chi non riesce a rinunciare a nulla e rischia di perdere le cose più importanti. Siamo in trappola. Che roba brutta sto trailer. Dove l'abbiamo preso? Perché ovviamente appena c'è una malattia ci fanno un programma televisivo sopra, giusto? Ah, ok, ho capito da dove arriva. Strano, perché non fanno robe brutte. Ah, non è, però non è il tuo canale preferito, Paolino. È l'altro il tuo canale preferito, dove fanno solo robe molto maschili e molto... Sì, infatti è solo per maschi praticamente quel canale lì. Vabbè, ma chi se ne frega. La disposofobia non è YouPorn, lo avete capito bene, no? È un programma di robe, avventure, giusto? Avventure, automobili, robe tecniche, più o meno. Disposofobia è un disturbo mentale caratterizzato da un bisogno ossessivo di acquisire, senza utilizzare né buttare via, una notevole quantità di beni, anche se gli elementi sono inutili, pericolosi o insalubri addirittura. Peraltro, quella roba che abbiamo mandato si chiama accumulatori seriali, giusto? È una roba per cui in cui c'è della gente che accumula di tutto, si riempie le cantine e loro ci fanno un programma televisivo sopra. Vi leggo però un pezzo che ho trovato a proposito di un caso clinico vero e proprio, un caso di studio di una persona che aveva questo disturbo, ripeto, disposofobia. La paziente D viveva con i suoi 2 bambini, sembra una roba di Freud, no? Allora, la paziente D viveva con i suoi 2 bambini di 11 e 14 anni e descriveva il suo corrente disturbo di accumulo come un piccolo problema

climbed into the belly of the great white bear. It's very sticky and it smells a little fishy, but no one will look for him there. He took a moment to pick his thoughts and make them clear. Ho letto d'un fiato il racconto di Chiara fino in fondo, fino alla fine, perché volevo sapere cosa ne avrebbe fatto di quel maglione lì. E quando lei lo ha riposto nel cassetto, ho tirato un sospiro di sollievo. Io non ho avuto la stessa pietà con i miei oggetti un paio di anni fa, quando li ho venduti tutti. Stranamente, o forse no, all'epoca gli oggetti da cui mi sono separato con maggiore fatica sono stati quelli piccoli. Per cui quando ho venduto il frigorifero o, che so, il tavolo della cucina, ad esempio, sì, certo, è stato difficile perché vedevo la casa svuotarsi e dovevo trovare una soluzione per starne senza, però alla fine erano oggetti con un grande valore funzionale più che affettivo. Quando invece ho venduto cose più piccole, cose facilmente sostituibili, però piene di significato, ecco lì è stato più complicato. Il primo oggetto che ho venduto, ad esempio, la bottiglia di vetro entro cui la mia ex mi aveva lasciato la lettera con cui chiudeva la nostra storia, ma anche il delfino giocattolo che mi ero comprato la prima volta che avevo visto un delfino vero. Ecco, quegli oggetti lì sono stati difficili da impacchettare e spedire. E tra l'altro la cosa che mi stupisce ancora di più è che ancora adesso, oggi, mi mancano. Ma c'è qualcosa però che mi ha stupito maggiormente ed è stata la mia reazione al racconto di Chiara. Perché 3 anni fa io avrei detto che gli oggetti non sono importanti, ovviamente, ma che lo sono i ricordi, e in parte ci credo ancora. Oggi però, quando ho letto questa storia, mi sono accorto di avere un po' cambiato idea. Mi spiego, continuo ad essere convinto che l'accumulo sia una devianza, però ho sperato fino in fondo che quel maglione a maniche corte giallo con le piccole fragole rosa lei non lo desse in beneficenza. Verso la fine di Vendo Tutto, io vendetti una scatolina di liquirizie, un oggetto piccolo e facilmente rimpiazzabile. Era una piccola scatola di metallo azzurra. Sul coperchio c'era il disegno di un bambino biondo su una spiaggia di ciottoli che gioca con una paletta e un cestello, e sullo sfondo il mare e 2 vele bianche. Le liquirizie si chiamano sassolini, chiaramente per la somiglianza con i ciottoli della spiaggia. Quelle liquirizie me le ha sempre regalate mia nonna fino a quando sono stato un bambino. Non ho mai visto quella scatola in nessun altro luogo che non fosse casa sua. Ecco, quella scatoletta di liquirizie è la cosa forse più difficile che ho venduto. No, non voglio dire che mi sia sembrato un tradimento nei confronti di mia nonna, eh? Però il bambino sul coperchio e l'odore dolciastro che emanava quando la aprivo sono state di fatto una parte di me, e dopo averla venduta ho dovuto fare molta fatica a ricordarmela, quella parte, senza quella scatoletta intendo. E dal momento che, a differenza di quello che ti insegnano quando sei bambino, io penso che se si può evitare di fare fatica per ottenere qualcosa è sempre meglio evitarla. E quindi, dopo aver letto la storia di Chiara, io ho girato 3 negozi di Milano, di quelli specializzati in dolciumi, finché non ho ritrovato quella scatoletta. Non ho mangiato nemmeno una liquirizia, ma me la tengo a portata di mano per aprirla e annusare quell'odore tutte le volte che mi va. E di questo devo ringraziare Chiara, perché ha rimesso nel cassetto quel maglione giallo con le fragole rosa. Mama gave a camera to a little star. All she gets is pictures of hotels and bars. No Big Ben, no Statue of Liberty. Loose women, one night stands. Kinda wish I wasn't living in other people's hands. No control, no lack. Si dividono in 2 sostanzialmente, quelli di cui si sono veramente pentiti e quelli che invece non si liberano di nulla. Questo arriva dai messaggi che giungono al 349-238-6666, ma anche sul profilo Facebook di questo programma che si chiama Voi Siete Qui, nel caso vi foste messi in collegamento solo adesso. Non si dice più nel caso vi foste messi in collegamento solo adesso, questo è Radio 24, il programma si chiama Voi Siete Qui, benvenuti nel 1952. Mi sono liberato della mia Vespa PX125 nera con i portapacchi bianchi. Sono passati anni, ma me ne pento ancora oggi. Se potessi la ricomprerei subito. Mia mamma, però incolpare la mamma, ragazzi. Cioè, da Freud in poi non ha più senso. Mia mamma ha dato via i miei robot giapponesi quando ero alle medie. Da allora vivo nel rimpianto e adesso me li sto ricomprando a botte di 200-300 euro al pezzo. E poi è arrivato invece un messaggio di Fabrizio, questo sul profilo Facebook, che dice: mi sono pentito di avere dato via il mio Dian 6, dove per Dian 6 si intende la Citroen Dian 6, che non è da due cavalli, è un'altra roba. E visto che parliamo di Dian 6, guarda Fabrizio, settimana prossima c'è una puntata che è perfetta per te, perché si parla di quella macchina lì e di un'altra macchina, che è una Fulvia Coupé, ma questo settimana prossima. 349-238-6666. Io me la immagino con al telefono con il maglione in mano, anche se non è così. Chiara, guarda, mi piace immaginarlo comunque. Pronto, Chiara? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Ma abbastanza bene, dai, diciamo. Dove ti trovi? Sono nel bagno della biblioteca del mio comune. E di Pioltello, giusto? Sì, sì, sì, sono qui per finire di sistemare la tesi, appunto. Nel bagno proprio? No, vabbè, perché sai com'è, in biblioteca poi se fai casino... Giustamente. Sono tutti un po' i vecchietti rompiscatole, allora... Beh, insomma, c'hanno ragione loro però, di sostanza, visto che di solito in biblioteca uno ci va per stare in silenzio, in compagnia. Non ho mai capito se si va più per stare in silenzio o più per stare in compagnia in biblioteca, perché in silenzio uno può stare anche a casa propria, a meno che non ci abbia un alto forno di fianco, che peraltro non fa neanche tutto sto casino. Tu perché ci vai, Chiara? Ma perché non ci c'è, qui non prende molto la linea internet innanzitutto, quindi Facebook e queste cose qua non ci sono. E ah, ci vai, ci vai perché non prende internet. Esatto, esattamente, okay. Esattamente. Ok, sei come gli scrittori che nei ringraziamenti del libro ringraziano quelle application che gli permettono di staccare i social network a tempo, no? Per 1 o 2 ore, in modo che non si distraggono. Sì, sì. Chiara, su cosa fai la tesi? Su un neuroscienziato portoghese che si chiama Damasio e studia le emozioni e la coscienza, una cosa molto Antonio Damasio, giusto? Sì, sì. Tiziano Bonini me l'ha suggerito, ovviamente io l'avrei brancolato nel buio. Scusami, tu studi quindi, Chiara? Filosofia. Filosofia. Quante persone si iscrivono a filosofia ancora all'anno? Ma un po' al primo anno si iscrivono, poi al secondo anno se ne vanno tutti. E dove vanno? Scusami, quelli che vanno via da filosofia smettono di studiare o vanno a fare una roba in cui gli promettono che entreranno nel mondo del lavoro? No, vanno a fare qualcosa teoricamente che gli promette di entrare nel mondo del lavoro, che in realtà non c'è nulla, per cui, però teoricamente io vedo gente che ha cambiato, è andata a fare economia, fisica, un po' di tutto, insomma. Da filosofia, beh in realtà poi filosofia ed economia non sono così slegate tra di loro. Più tardi, no, leggiamo un pezzo di Henry David Thoreau che era a metà tra un filosofo, un pensatore. Vabbè, ma chi se ne frega, ne parliamo più tardi. Chiara, torniamo al maglione. Il maglione è sempre là nel cassetto adesso. Sì, sì, sì. Non sono tornata a vedere perché ho paura che riattivi in me dei ricordi non particolarmente piacevoli da tirare fuori, però c'è ancora. E diciamo, c'è qualcos'altro? C'è qualcos'altro di tua mamma che hai tenuto, magari non d'abbigliamento o oggetti particolari? Ma l'altro giorno ho ritrovato un portachiavi che è stato uno dei primi regali che le ho fatto da piccola, quando ancora non avevo i soldi miei, non guadagnavo nulla, era un po' eravamo in vacanza, avevo preso questo portachiavi di legno e lei lo teneva al lavoro per le chiavi, insomma, della macchinetta, sì, del, sì, caffè, sì, sì, sì. E l'altro giorno l'ho ritrovato e cioè, questa è una delle tante cose. Poi in realtà abbiamo tenuto tanto, nel senso, la casa è piena ed è lei, la casa era dove stava lei, per cui insomma... Ho capito, cioè insomma è piena di cosa sua, non avete fatto una pulizia generale, avete solo cercato... Giustamente tu dici che in realtà quello è un modo per cercare di ripartire, no? Partiamo dalle cose piccole, vediamo come si riesce a vivere senza, no? In realtà, probabilmente appunto come il maglione tieni da parte un sacco di roba. E un'altra cosa che mi piace, mi faceva sorridere, è che tu dici eravamo logorroiche tutte e due, che di solito quando uno è logorroico non lo ammette mai, cioè non, ci vuole del coraggio per dire sono uno che parla tanto... Non so, me lo fanno notare tutti, per cui ormai mi sono rassegnata, ecco, all'idea. Senti Chiara, scusami, e poi ti devo, perché essendo tu logorroica, sento che parti e ho paura di non fermarti più e devo mandare la borsa. Mi dici cosa fai da grande quindi dopo filosofia? Ora sto ricominciando la magistrale però in pedagogia, quindi spero di lavorare con i bambini, quelli più disagiati possibile. Speriamo di... Ma scusa, nelle scuole o come educatrice? Come educatrice. Come educatrice. Tendenzialmente, sì. Ok. Chiara, io ti ringrazio molto per il tuo racconto, grazie, che era toccante ma garbato, e grazie per la chiacchiera. Soprattutto, e non è vero che sei logorroica. Grazie. Ciao, buona grazie giornata. Mille. Ciao, ciao. Ciao, grazie a te. Mauro, che è un vero accumulatore, scrive: io conservo, questo è il top, è il massimo, io conservo una scatola con una scritta "chiodi storti". Ha una testa di capelli rossi meravigliosa, Chiara, e nella foto che ci ha mandato risaltano ancora di più, perché sono sullo sfondo di un cielo azzurrissimo estivo e di una linea abbastanza sottile di mare alle sue spalle. Lei di conseguenza ha una pelle molto chiara e si vedono giusto le spalle, e ha un tatuaggio, un tribale si chiama, no, non è un tribale, no, è un ideogramma. È un ideogramma, credo, cinese o giapponese, di quella che, vabbè, che chiaramente la leggenda è che potrebbe esserci scritto qualsiasi cosa, ma io mi immagino che ci sia scritto semplicemente il suo nome. Madeleine, sostantivo femminile francese. Esperienza fortuita capace di evocare immagini autentiche sepolte nella memoria. Etimo, per antonomasia, dal nome del biscotto il cui sapore evoca in Proust momenti della sua infanzia a Combray. Data secolo XX. In cantina dei miei genitori ho trovato uno scatolone. Dentro c'era un pile degli anni 80, di quelli blu e fucsia. Quei pile lì ce l'hanno tutti, che sia blu o fucsia o arancione e verde, tutti hanno un pile così. Lo usavo quando avevo 10 anni, l'ho portato a casa e adesso lo uso tutti i giorni. Ecco, tutti ce l'hanno, ma non tutti lo riutilizzano tutti i giorni. Qua ormai siamo decisamente nati sugli accumulatori, eh. Io conservo Super Flash e Il pranzo è servito, Andrea. Cosa sono, dei giochi in scatola, giochi da tavola. Cioè, Il pranzo è servito, me lo posso immaginare, Super Flash proprio. Durante un trasloco ho buttato via una vecchia bomboletta di deodorante. Deodorante spray Fabergé, credo che si dica così. Con la testimonial Farah Fawcett, che usava mia nonna quando ero bambino. È sempre rimasta in un cassetto in bagno, mai finita. Nel 2006 l'ho gettata e nel 2009 l'attrice Farah Fawcett è deceduta. Mi spiace non averla più e non ricordo il profumo. Claudio di Novi Ligure. Ci sono almeno 4 piani semantici in questo messaggio. Farah Fawcett, il profumo, la nonna. Mia nonna usava un profumo non tanto diverso da... Aveva un nome... Temptation, forse. Che tu non te la vedi mai una nonna che usa un profumo che si chiama Temptation, che poi non era Temptation, però era una roba del genere, tipo "se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c'è", ve la ricordate? Obsession, vabbè. Mi sono amaramente pentito, finalmente qualcuno che si è disfatto di qualcosa. Mi sono amaramente pentito di essermi disfatto del mio mai abbastanza rimpianto Yamaha C3, dal suono meravigliosamente irraggiungibile. Non so cosa sia uno Yamaha C3, sarà una piano, una tastiera. Ma no, Tiziano, Yamaha non è una moto. Yamaha C3 sarà una piano, una tastiera, immagino. Paolino, sei un tecnico. Uno si è liberato dei vinile. Donatella, la prima auto, una bellissima 500, però ecco, le auto fanno caso a storia a sé, perché come fai a non liberarti di un'auto? O c'hai una serie di garage dove le metti su dei mattoni, ma tanto vanno male. Gli esperti ti dicono: se la lasci lì la macchina va male, se non la usi si rovina, se la usi si rovina. E lì andiamo su quelli che appunto accumulano moto e auto e poi ogni tanto li rivendono. A proposito di accumulazione e di vivere di accumulo, perdonatemi, accumulazione di accumulo e di vivere senza oggetti e di provare a vivere bene senza oggetti, un sacco di anni fa, per l'esattezza nel 1845, questo, l'abbiamo definito pensatore, filosofo, Henry David Thoreau, decise che andava a vivere nei boschi. E ci provava a vivere senza niente nei boschi. Era una sorta di tentativo per riconciliarsi con la natura e di liberarsi degli oggetti. Si chiama Walden, ovvero Vita nei boschi. Insomma, è un testo famosissimo e quindi è inutile che siamo qui a parlarne. C'è un punto però di questo libro in cui parla esattamente dell'abbigliamento e della differenza tra quello che ci mettiamo e quello che siamo. Tutti gli uomini hanno bisogno non di qualcosa con cui fare, ma di qualcosa da fare, o piuttosto di qualcosa per essere. Forse non dovremmo mai procurarci un abito nuovo, per quanto stracciato e sporco sia quello vecchio, finché non ci siamo comportati in maniera tale, o non abbiamo compiuto o varato azioni tali, da sentirci uomini nuovi nel vestito vecchio. Cosicché conservarlo sarebbe come tenere vino nuovo in bottiglie vecchie. La nostra stagione di muta, come quella degli uccelli, deve corrispondere a una crisi della nostra vita. Il gabbiano del nord si ritira presso stagni solitari per passare tale stagione. Parimenti, il serpente smette la propria pelle e il bruco abbandona il suo abito di verme per una proprietà interna di espansione. Perché gli abiti sono soltanto la nostra cute esteriore e le nostre spoglie mortali. Altrimenti si scoprirà che navighiamo sotto falsa bandiera e saremo allora inevitabilmente messi al bando dalla nostra stessa opinione, oltre che da quella degli altri. Noi indossiamo un indumento dopo l'altro, quasi crescessimo per aumento dall'esterno, come le piante esogene. Le nostre vesti esterne, spesso fini e graziose, sono la nostra epidermide o la nostra falsa pelle, che non partecipa della nostra vita e non può essere strappata qua e là, senza che noi ne soffriamo fatalmente. I nostri indumenti più pesanti, che portiamo sempre, sono la nostra corteccia. Ma le nostre camicie sono la nostra corteccia fibrosa, o vera corteccia, che non si può tagliare senza incidere, e così uccidere un uomo. Niente, se hai aperto il cassetto dei ricordi di Profumo, mi scrivono malizia, Profumo d'intesa, gocce di Napoleon, forse era anche gocce di Napoleon. 349-238-6666, ancora, se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c'è, allora faccia, sapete cosa, io l'ho, visto che l'ho trovata, ve la mando, eh? Questo è inconfondibile, sto pezzo. Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c'è Impulse Parfum Deodorante. Esatto. Nel frattempo c'è, appunto, se non so se ve lo ricordate, nuovo ci sono di spezie d'ambra. Nuovo di spezie d'ambra. Ci sono due tizi pettinatissimi che nelle strade di Roma, mi pare, vanno in giro. Lui è un cleptomane, chiaramente ruba dei fiori da un fiorista e glieli regala lei, d'altra parte, se qualcuno ruba un fiore per te. Conservo tutti i biglietti di tutti gli eventi, musei, cinema, concerti al quale ho partecipato, Sergio. Ci sono chiaramente dei casi di sposofobia, mi allontanavo perché avevo il computer lontano, non vedevo, di disposofobia tra gli ascoltatori di questo programma, ma ci sono un paio di messaggi invece che hanno a che fare con questa storia e un po' anche con la storia di malizia, Profumo d'intesa e gocce di Napoleone. La mia nonna è mancata nel 1920 e conserviamo ancora il fazzoletto da naso che aveva in tasca. Il mio babbo invece è morto nell'81 e conservo il pacchetto di sigarette aperto che teneva in tasca. Sono malato? Carlo, io credo di no. E poi ancora, in casa mia giravano due ciotole per la colazione, vinte da mia nonna nell'84 con i punti del mulino bianco. Attaccati ci sono i ricordi di un'infanzia, passati al mare e settimane bianche. E poi ancora, questo è il migliore di tutti, ho conservato non i pattini, ma le chiavi dei pattini a rotelle, che avevo a 6 anni. E mi ricordo che quelle chiavi aprivano il rubinetto dell'acqua del cortile della mia infanzia. Ora ho 53 anni. Fabio. Grazie a Fabio, grazie soprattutto a Tiziano Bonini, Margherita Ina e a Paolino Corleoni. Grazie a Chiara, la storia di oggi era la sua. E anche lei è un punto rosso su una mappa. Io sono Silvia, dalla provincia di Pistoia. La storia di domani è la mia, parla di minatori. Questa è la mia storia e io sono qui.